dosaggio universale. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Può indurre un presidente del consiglio votato per un suo consiglio per gli acquisti o per un altro assurdo motivo. C'è un sottile filo del rasoio fra droga e medicina, che spesso si dimentica abusando della seconda e demonizzando la prima. Ma l'abuso è patria delle droghe, ovvero l'uomo ha lottato per ottenere un potere che però intanto l'ha domesticato. Non bisogna mai confondere la potenza con il potere. O è come togliersi una benda ma senza più avere sotto degli occhi per poi poter vedere. Non sono solo l'aumento dei prezzi delle case o la disoccupazione ad aver creato una generazione in cui figlio del guerriero è un apatico mammone. Ma essendo una causa complessa non potrebbe influenzare la tipica canzone che coccola teenager combattendo la loro sottovalutata situazione. Per me l'idea di benessere è il problema, e i concetti pedagogici che ha resi i giovani parassiti dei diritti più che repressi da un sistema. Lo stesso termine sistema, mentre io cresco i miei concetti come i figli a Sparta, ovvero con una tensione estrema. E non vi metto a vostro agio, non faccio mai una mia canzone, solo improvvisazione nei live endogeni tramite un bendaggio. Tornando al non punto, i bambini combattono guerre ideate da vecchi come mattatoio numero 5, ma sono anche anni che lire quelle poche battaglie finte, come la libertà di parola che in quanto abusata è stata svalorizzata. Parola della strada, da una parte i dialetti si perdono per la lingua riformata, altri ragazzi a slang contingenti che rivelano non concentrarsi troppo sui momenti presenti, senza troppa analisi dei non fondamenti del loro essere inesistenti. Per questo vanno d'accordo col poker e la statistica inferenziale. Io parlo di ciò che ho visto, non per ottuso empirismo e egocentrismo, ma per ricordare il lato crudo perso dai giovani liste, dagli adulti che fanno certi libri sui giovani. Prova il mio periodo di La percezione della politica come una futile astrazione, né per metà la causa e per metà la giustificazione strategica perfetta. Ulisse ha lasciati sui bimbi a Tirce, ed ora troppi porci mediocri previsti da Nietzsche. È il paradosso dell'eredità, data più alla che con la prole, in quanto basata su un concetto poco lungimirante di età. Infatti ogni nostro figlio è un'eredità che un po' ci rispecchia, data l'umanità che segue anch'essa il tempo ma che non invecchia. La distorsione della percezione non la danno solo l'SD, funghi o marijuana, ma anche guardare il mondo dalla luna, guardare il presente da Futurama. Spam!